diventa anche tu un'opera di Picasso. Radio 24 dà la possibilità a 140 ascoltatori di partecipare a una serata esclusiva per rivivere e conoscere le opere del grande artista andaluso presenti in mostra a Milano a Palazzo Reale. Accompagnati dai conduttori di Radio 24 sarete i protagonisti di una serata che non potrete dimenticare. Tutte le modalità per partecipare all'evento su radio24.it.